Il codice appalti è uno strumento, insomma sono un insieme di leggi che servono a tutelare, diciamo, tutto il percorso, la filiera, diciamo, della realizzazione di lavori pubblici. Abbraccia dal momento in cui si progetta un lavoro o un servizio, al momento in cui si deve appunto scegliere chi lo deve realizzare, al momento poi dell'esecuzione. Quindi ha questi tre grandi filoni. Il codice degli appalti, che è diventato, diciamo, un codice per mettere a sistema, diceva, diverse normative, disciplina tutto questo, cioè la progettazione, e l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'opera. Si tratta di risorse pubbliche, perché si tratta di beni pubblici, e quindi la gestione delle risorse pubbliche, che è un bene comune, deve essere dato con una tracciabilità, in maniera tale, insomma, che le risorse pubbliche non vengano rapinate, come la nostra storia purtroppo del paese conosce. Naturalmente il codice degli appalti nostro tiene conto oggi delle direttive europee, perché siamo dentro l'Europa. L'Europa, diciamo, ha dei principi che il codice degli appalti riprende, e poi naturalmente, diciamo, è collocato alla particolarità e alle esigenze, diciamo, di un paese come il nostro. Quindi è, si può dire, un buon codice. Certamente è enorme, è complesso, e quindi, diciamo, deve essere conosciuto, deve essere, come dire, governato, no? Certamente si potrebbe, forse, se avessimo, diciamo, un legislatore un po' più attento, potremmo anche avere un codice più chiaro, più lineare, e quindi alcuni eccessi di burocratizzazione si potrebbero anche eliminare, ma tutto questo richiede, diciamo, un miglioramento, una migliore capacità di scrivere, diciamo, i passaggi, ma non un'eliminazione o altro. Quindi è uno strumento importante. Poco meno di una settimana fa, tra l'altro, anche la direzione investigativa antimafia segnalava proprio il rischio dell'infiltrazione mafiosa nel contesto Covid rispetto al recovery fund. Come si colloca, diciamo, questo rischio anche rispetto al dibattito che ora si sta avendo appunto sulla possibilità di una moratoria rispetto al codice appalti? Noi siamo molto preoccupati, cioè questo è un messaggio negativo, un messaggio che non si deve dare un paese in questo momento, che invece deve darsi strumenti importanti per poter, diciamo, far crescere ancora di più, e tutte le risorse che vengono, tutte le grandi risorse che verranno in questo paese, diventare invece un volano di sviluppo, un volano di comunità che sviluppa la comunità. Un messaggio di questo genere, un messaggio invece che rafforza le consorterie corruttive, mafiose. Abbiamo bisogno invece di avere delle regole chiare, delle regole che abbiamo già, dobbiamo utilizzarle meglio, ci sono degli strumenti per migliorarli, anche nell'esecutività, senza modificare. Invece un messaggio del genere, un messaggio di indebolimento, del controllo, diciamo, della cultura del controllo preventivo di tutta la filiera, di come si investono le risorse pubbliche. No, cioè se noi dobbiamo fare un bene, dobbiamo gestire o dobbiamo realizzare un bene pubblico, è un bene di tutti, e tutti abbiamo bisogno di che questo bene sia realizzato nel miglior modo, dalle persone migliori, dalle persone più competenti. Quindi abbiamo tanti strumenti, facciamo formazione, cerchiamo di digitalizzare tutto il percorso, cerchiamo anche, diciamo, di creare anche una cultura dell'etica dell'impresa. Cioè noi in questo paese abbiamo delle imprese che fanno in modo che quel bene sia realizzato bene, nel rispetto dei diritti del lavoratore, nel rispetto della natura, dell'ambiente, e quindi sia consegnato alla comunità un buon bene. Per fare questo, le regole, gli imprenditori per bene li vogliono. Chi non li vuole le regole? A chi queste regole intralciano? A chi queste regole li vuole evadere, eludere, violare? Perché naturalmente se non ci sono non c'è bisogno nemmeno di violarle, quindi non fa nemmeno reato. Però ci sta dentro, in questa cultura dove non ci sono regole del controllo, e quindi le risorse pubbliche che sono di tutti diventano appannaggio privato. Io credo che sia, in questo momento, sia veramente pericoloso ragionare in questo modo. Noi abbiamo strumenti di controllo importanti, acceleriamo tutti i percorsi. Il codice dell'appalto non è contro l'accelerazione, il codice dell'appalto, se gestito bene, invece agevola l'accelerazione, perché tutti i percorsi sono ben costruiti, e quindi il lavoro, diciamo, il servizio viene dato e viene fatto nei tempi giusti. Quindi il punto vero, perché oggi dobbiamo, in un momento in cui le mafie e le consorterie corruttive si stanno ancora di più attrezzando per succhiare le risorse pubbliche, e quando le mafie succhiano risorse pubbliche, questa è una cosa che dobbiamo capire, non migliora una società, non migliora una comunità, non migliora, diciamo, la ricchezza di quel territorio, anzi viene danneggiata. Vengono danneggiati gli imprenditori per bene, vengono danneggiati i professionisti per bene, e quindi tutti. Noi siamo molto preoccupati nel settore sanità, per esempio, no? Il settore sanitario, la tutela del diritto alla salute, l'abbiamo visto, che cosa ci ha voluto raccontare il Covid, in un appannaggio e in un messaggio così devastante. È chiaro che loro ci stanno mettendo già teste, ci hanno messo anche risorse, stanno riciclando, perché noi dobbiamo dare questi messaggi? Gli strumenti che abbiamo, specialmente quando sono anche dei buoni strumenti che devono essere migliorati, quando tutelano i diritti, la filiera dei diritti, devono essere invece rafforzate, condivise, no? E viste come un qualcosa che serve per l'interesse generale, l'interesse pubblico. Quindi ci sono tanti strumenti che abbiamo. Perché cambiamo gli strumenti che funzionano? Perché non li vogliamo conoscere? Tutto questo necessariamente presuppone una buona formazione, una buona capacità, diciamo, di parlarsi degli enti, e anche una rete di integrità delle imprese. Ma questo ce l'abbiamo, cioè questo paese ce l'ha, le risorse migliori questo paese ce l'ha. Ecco, questi sono messaggi contro le risorse migliori e sono messaggi che avvantaggiano e fanno bene alle consorterie.